il GR di Radio Popolare anche per oggi, martedì, imprevedibile martedì 27 febbraio, per il Breakfast Club di Radio Città Fujiko parte Altri Suoni, del resto nato proprio per la giornata del martedì, quindi abbiamo una continuità in musica per osservare con monografie Altri Suoni o anche con selezioni particolari, attenzioni per alcune specificità di suono tra elettronica, glitch, ambient, free jazz e altro. Oggi eliocentric, eliocentrismo, partiamo dall'etimo, insomma, il cosa si intende per eliocentrico, che prende appunto il nome, la band che vi sto appena presentando, è un sistema planetario eliocentrico dal sistema copernicano, nel quale i pianeti ruotano intorno al Sole e non con il Sole intorno alla Terra, come era il sistema geocentrico invece tolemaico. Ovviamente è stato inviso, come ben sappiamo, criticato dal potere conservatore temporale. Gli heliocentrics invece vanno a scardinare tutto ciò che è un potere tradizionale in ambito musicale, se vogliamo. L'aspetto heliocentrico è stato considerato anche da alcuni musicisti per quanto riguarda un determinato aspetto del free jazz, del free funk anche. Siamo alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, ma arriviamo ai giorni nostri. Non sono, diciamo così, delle interpretazioni le composizioni degli heliocentrics, tutt'altro, sono molto originali, hanno quel sapore, certo, che ho portato con veloce descrizione alle sonorità dell'epoca, suoni che non mi piace definire vintage, ma che hanno anche questo aspetto per chi appunto ha particolare attenzione per quella storia della musica che ha visto musicisti, etichette discografiche in ambito di free jazz e free funk, ma anche la stessa Art Ensemble of Chicago, queste formazioni estese, le big band di Sun Ra, l'aspetto free funk della Liberation Orchestra, insomma, oltre che una denuncia e un'importanza nei contenuti, un ritorno per dare sguardo in avanti. In che modo? Con l'elettronica, con collaborazioni che vedremo a breve. Iniziamo dal loro disco che secondo me è di maggior successo, Fuori da qua, Out There, è il titolo che io ho tradotto in maniera molto maccheronica, ma che rende un po' l'idea. Tra l'altro la psichedelia è fondamentale in queste sonorità, oltre che l'aspetto elettronico, la capacità di collaborare ulteriormente anche con suoni che provengono da un altrove, che vedremo tra pochissimo, saranno motivo di composizione nella nostra playlist per conoscere gli heliocentrics. How strange to know our sun that illuminates our world, blazes glorious warm light. Can somewhere be a distant star? I con il lavoro Out There, per Now Again e sempre per Now Again con il lavoro 13 Degrees of Reality. Le prime due proposte arrivano dalla californiana Now Again, prestigiosa label. Dopo questo stacco passiamo a una collaborazione. Ho parlato della Now Again, californiana, si occupa di riportare questi suoni di avanguardia afroamericana ai giorni nostri, con suoni moderni e anche con ricerca nel passato. Di Heliocentrics, una band londinese, ha un collettivo che combina funky, jazz, psicadelia, ricerca in librerie musicali. Il gruppo gira intorno a un produttore, bassista Jake Ferguson e al batterista soprattutto e tastierista Malcolm Cattle. Di ricerca, di grande gusto musicale. Nel disco Out There c'è la collaborazione anche alla voce, alle tastiere di Jessica Lorne. Ricerca da un altrove, gli Eccentric, qui ricordiamo San Ra con l'Africa, la collaborazione in questo caso col polistrumentista di ricerca per suoni africani Lloyd Miller. Abbiamo parlato della Now Again, per quanto riguarda un successo che va oltre, è con la Strat che ottengono in collaborazione con Mulatu Astat che dall'Etiopia, Inspiration Information è la collana di queste collaborazioni, con un disco uscito nel 2008-2009 di una bellezza straordinaria che ho già proposto più volte. Magari lo mettiamo al termine di questa mini playlist che sto mettendo assieme, dedicata agli Heliocentrics. Come vi ho detto, le sonorità tra il metafisico, l'esoterico, la ricerca, lo spazio annullato nei tempi, comprendendo appunto questa idea di eliocentrismo, di Heliocentrics. We'll be right back. questo sax baritono, in precedenza abbiamo sentito anche l'utilizzo di una sezione d'archi, la giusta dose di elettronica, l'ispirazione nel free jazz e nel free funk tradotta ai giorni nostri. Guardo a un altrove e la conclusione allora vi propongo dalla Now Again con Out There, il disco che sinceramente ho, ma poi sono belli tutti, anche se loro molto particolari nella struttura anche dell'LP, brani brevissimi di stacco e di collegamento tra sonorità e tra brani proposti e lunghe suite come in questo caso con la collaborazione fra Mulatu Astatke, che tastierista etiope, e i suoni degli Heliocentrics. In conclusione, per come ho detto, uno sguardo assolutamente da un eliocentrico al totale. Questa la puntata di Altri Suoni odierna, è il martedì imprevedibile e a breve avremo il Mood Groove. Vi lascio con questa collaborazione per Strat Record, per me un disco meraviglioso, anche questo un lavoro assolutamente da avere per la rassegna Inspiration Information. Mulatu Astatke and Heliocentrics, a tra poco. Mm-hmm.